Io due parole su chi sono, mi chiamo Luca Maccione, sono un economista. Oddio, sono più uno statistico che un economista, però mi spaccio anche per economista. Collaboro con Cooperativa Cicco Mendes, che è una cooperativa di commercio agroconsolidale. Poi, durante la mia presentazione, vi spiegherò un po' meglio che cos'è il commercio agroconsolidale per chi non lo sa e qual è la realtà italiana commercio consolidare attualmente, no? Al presente. Cooperativa Cicco Mendes fa tante cose, no? Dedichiamo l'ultima parte a raccontare un po' che cosa fa. Iniziamo la nostra presentazione. Il titolo di oggi è Fair Trade e Food Market, mercato del cibo e commercio consolidato. Sottotitolo Biodiversità e sovranità alimentare, perché vedremo che questi due temi stanno molto a cuore al fair trade, un po' meno forse al food market, anche se dovrebbero essere un po' le linee guida in qualche modo per chi vende, produce e soprattutto vende cibo. Iniziamo con un bel video che vi ho portato, un video molto veloce, anche molto carino, così poi magari lo commentiamo insieme. Allora, vediamo se riusciamo a fare una roba bene. Sì. Sono tre in sequenza, li vediamo tutti e tre in sequenza. E i messaggi commerciali, di comunicazione che ci vengono lanciati hanno delle caratteristiche ben precise. Secondo voi cos'è che ci dice questo messaggio qua? Che caratteristiche mette in evidenza del prodotto che viene venduto? Dimmi. L'unicità del prodotto. L'unicità, però, rispetto a quali caratteristiche? Qual è l'elemento che vuole far emergere questo annuncio? Che è buona? Che è? Bene, giusto. Cioè, è un messaggio estetico. Cioè, quella che si deve fare la lampada, che si gira la parte della parte gialla, non va bene, non ha un colore unico. L'altra, le macchie, guai, e l'altra ciccione. Guarda un po' il cattivo gusto, l'ultimo è quello del ciccione, un po' pesante. Quindi ci dice, devi comprare un cibo che deve essere bello. Razionalmente, se io vado ad acquistare un cibo, mi interessa che sia bello? Cioè, se io faccio un'analisi razionale, quindi ci penso, no? Non di impulso, perché quando andiamo al supermercato, io per primo compro la cosa più bella. Purtroppo il nostro cervello è fatto così e siamo portati, e loro lo sanno, ad agire in questo modo. Però a volte invece vado al supermercato e dico, ok, oggi con calma, devo comprare tutto il tempo che voglio, che cosa penso? Se devo acquistare un cibo, prendo quello più bello? No, quale dovrei prendere? Quello più? No, voi, buono, non abbiate paura perché non è che vi do voti, è quasi libero proprio. Quello più buono, o quello che piace di più a me, o magari anche quello più conveniente, vero, sì, in questi tempi soprattutto. Però il cibo è qualcosa che entra nel nostro organismo, quindi a cosa dovremmo stare attenti? Che sia magari sano. Lo so, io le valutazioni che faccio, a parte le tasche purtroppo, però immaginiamo di avere disponibilità economiche, poi sull'acquisto di una banana sono quei 2-3 centesimi di differenza, non è che c'è una marca e l'altra, però se ci pensi alla ragione, dico, vabbè, vado a prendere quello che mi dà più garanzie, poi non è che sono sicuro, ma mi dà più garanzie di salubrità e di bontà di gusto per me. Purtroppo però il messaggio, e non solo per le banane, in generale qualsiasi tipo di alimento ci viene sempre veicolato con un messaggio estetico prima di tutto, poi viene anche tutto il resto. Ecco, in realtà questo qui era un piccolo video introduttivo, il vero video che dura 10 minuti è un documentario che voglio far vedere adesso come introduzione per poi parlare di argomenti, magari suscitare anche qualche domanda da parte vostra, che è un documentario vecchio di circa una quindicina d'anni fa, mandato in onda dalla TV Svizzera. In Italia questo non è mai stato mandato da nessuna televisione, però è in italiano, appunto la TV Svizzera è italiana, e vedrete a volte i prezzi in franchi, il confronto che viene fatto con i prezzi del sud del mondo sono in franchi, ma la conversione è presto fatta, magari offrire un attimo e la facciamo al momento. Perché vi faccio vedere questo documentario che è vecchio? Perché è un documentario che non si trova, non potete trovarlo su YouTube, non è disponibile, attualmente non l'ho cercato, non c'è. Ce ne sono una serie di più nuovi, infatti anche meglio, più recenti, eccetera, eccetera, che invece sono disponibili. Io infatti vi esorterei poi, oggi, domani, quando volete, avete tempo, andare a casa con calma a fare un confronto tra la situazione di 15 anni fa e la situazione oggi, magari per vedere se si è modificata. E adesso vediamo questo vecchio che però è molto bello perché è completo, parla di un sacco di cose in poco tempo e introduce un po' le tematiche che andiamo ad affrontare, e sembra un pezzo unico come la banana ciclina, questo è veramente unico, non si trova più. Lo mettiamo su e vediamo. Vediamo cosa ci dice. Qualità al massimo, perché fa tutto un cinema di trasformazione da VHS a... Però comunque se si vede bene, a parte i primi due secondi, e si sente bene. È tutto per fare della banana un prodotto di largo consumo. Furibonde guerre commerciali, corruzione, colpi di Stato, tutti i mezzi sono stati usati per trasformare questo dolce frutto in un ambiente. E ci sono i... Andiamo a luce perché si già... Nel massimo... Ecco, fino a le grandi multinazionali, Dole, Del Monte e Chiquita, visto che oggi la banana è il prodotto fresco più consumato nel mondo. Nonostante venga da lontano, costa meno delle mele ed è ormai su tutte le tavole. Se ne producono 85 milioni di tonnellate all'anno. 7 milioni vengono destinate al commercio internazionale. Una quantità sufficiente per generare enormi profitti che fanno gola. Preparato un piano nel quale si ridefiniscono le condizioni dei lavoratori, soprattutto per quello che concerne i benefici superflui, in modo che, grazie a questo dialogo che abbiamo aperto con loro, si possa operare ad un costo più competitivo. Così possiamo evitare di dover chiudere le piantagioni in Lombardia. Ma quello che Donald Moore aveva definito il dialogo ha portato in realtà a licenziamenti in massa e a riassumere poi una parte dei lavoratori e salari quasi dimezzati e con contratti spesso della durata di soli 85 giorni. Così le imprese evitano di pagare i costi sociali. Entrare nelle piantagioni per verificare la situazione è molto difficile. Sono infatti pattugliate da guardie armate e il clima è molto teso. Solo la Del Monte, grazie alle denunce e alle pressioni dei sindacati, ha fatto qualche concessione ai lavoratori. Sentiamo Don Scalvo, sindacalista, che una volta alla settimana visita alcune piantagioni del Monte e parla con i lavoratori. Ma la cosa è la verità. Il salario si è ridotto al minimo. Quanto guadagnate due mesi fa e quanto ora? Questo lavoro due mesi fa guadagnavo più o meno 56.000 colones ogni 15 giorni. Adesso dovrei arrivare a 30. Chissà se riuscirò a guadagnarne 30. Chi lo sa? Salari attuali siamo intorno ai 40 euro a settimana. 40, 50 euro a settimana. Con questa politica dei licenziamenti nessuno si sente sicuro, in particolare le donne. Qui lavorano molte ragazze madri, a loro è tutto più difficile. Queste donne sono in una situazione molto precaria. Sono costrette ad accettare tutto pur di tenere in piedi la loro famiglia. È un lavoro massacrante perché sono impegnate 12-14 ore al giorno. Stanno sempre in piedi e dispongono di 15 minuti per la colazione, 30 per il pranzo e 15 per bere qualcosa. Non possono sedersi un attimo e per andare al bagno devono chiedere l'autorizzazione e ci vanno quando glielo permettono, non quando hanno bisogno. Ma questo non è tutto. Molte famiglie di Bananeros sono legate mani e piedi alla multinazionale. Dalla Del Monte Claudia ha ricevuto la casa e i figli frequentano la scuola dell'azienda. Guai allora a lamentarsi e agire perché il rischio è quello di perdere tutto, sia il lavoro sia la casa. Devo andare. Da quando mia sorella si è iscritta al sindacato per me sono iniziati i problemi. Allora sono andata al comitato del sindacato e loro e anche Doris mi hanno dato un po' di aiuto. Ma non hanno ottenuto molto e fra due mesi dovrò andare. A slogare. 8 giorni fa mi hanno riassunto la palma e mi hanno nuovamente licenziato. Oggi qui c'è gente disposta a firmare qualsiasi tipo di contratto. E io poi sono considerata troppo vecchia, compirò presto 44 anni. Ritmi di lavoro stressanti, situazioni insicure, e questo non è tutto. I problemi più grossi vengono dall'uso massiccio di sostanze chimiche che causano gravi danni alla salute non solo a chi lavora nelle piantagioni, ma a tutti, a chi in quelle zone vive. A partire del 1990 approssimativamente, cominciamo a scoprire una serie. A partire dal 1990 circa, abbiamo cominciato a scoprire una serie di patologie legate alla coltivazione delle banane dovute ai prodotti chimici che si utilizzano. Dermatitis. Tra queste la dermatosi, dermatiti da contatto, alcuni tipi di allergie alle vie respiratorie e riniti, perché si utilizzano molte sostanze chimiche e aromatiche. I problemi respiratori, le infiammazioni e i lunghi sono frequenti tra i coltivatori di banana. Abbiamo notato che in concomitanza con le fumigazioni aeree, qui nel consultorio i casi si moltiplicano. La chiamano banana cosmetica, quella che arriva sulle nostre tavole. È grande, di forma perfetta e senza macchie. Ma tutto ciò ha un suo prezzo. Per combattere i parassiti che nelle monoculture dei tropici trovano il loro habitat ideale, occorrono ogni anno oltre 40 kg di fitofarmaci petalo. Una pioggia di sostanze chimiche che una volta alla settimana colpisce ogni forma di vita. Mentre stavamo mangiando, è passato l'aereo e abbiamo dovuto coprire il piatto con le mani o con qualsiasi altra cosa, altrimenti il liquido che stavano spargendo avrebbe contaminato anche il cibo. Passano anche quando stiamo lavorando e il liquido ci arriva addosso. Evelyn abita al confine delle piantagioni e nelle piantagioni lavora da quando era bambino. Avvolge i caschi nelle borse di plastica e quando i frutti sono maturi si occupa del taglio e del trasporto. Ma anche i sacchi sono impregnati di sostanze chimiche e gli hanno causato gravi problemi. È come se ricevessi una scossa. Ora ad esempio sento un bruciore, sembra di stare su una traccia. E malgrado questo continua a lavorare nei campi di banane. Sì, perché malgrado questo non mi danno l'invalidità. E dove devo lavorare? Lavora col sole, con la pioggia. Ci vado col sole, con la pioggia, sempre. E dove fa male? Certo che mi fa male. Però devo sopportare. Devo mantenere la mia famiglia, pagare i conti. Cosa vuoi che faccia? Sono stato all'istituto per avere un certificato per la mia malattia. E poi sono stato in tribunale per ottenere un risarcimento. Lì mi hanno fatto fare alcuni esami e il medico che mi ha visitato mi ha detto che era un problema grave e ha confermato che era causato da lavoro. Sul certificato però è risultato che non era un problema del lavoro. Io penso che l'istituto, l'azienda e il governo si siano messi d'accordo tra loro. Anche i due figli di Evelyn, come quelli di altri coltivatori, hanno problemi di salute dovuti probabilmente all'inquinamento. Lui però è diventato padre, mentre molti suoi compagni, alcuni decine di migliaia, sono rimasti sterili a causa dell'imagon, un erbivoro usato su larga scala negli anni 70. Però ora vemos varias patologias. Ancora oggi vediamo diverse patologie. Tra i nostri pazienti ci sono coltivatori con un numero di spermatozoi molto basso e ciò potrebbe derivare da sostanze chimiche attualmente in uso e che non si vogliono eliminare. Negli anni 70 nessuno disse che il Nemagon rendeva sterili. Se ne sono accorti solo 10-12 anni più tardi. I poveri che vivono vicino alle coltivazioni non hanno acqua potabile e acqua di pozzo, non c'è dappertutto. Se queste persone bevono acqua da un pozzo profondo circa 4 metri nelle zone dove si usano sostanze chimiche, bevono acqua inquinata. Infatti quando piove le sostanze chimiche finiscono in quell'acqua. Milioni di litri di fungicida nella sola Costa Rica, i quali vanno aggiunti insetticidi e fertilizzanti chimici, tutte sostanze che finiscono nel suolo, e poi vanno giù fino al mare, minacciando oltre l'uomo anche la flora e la fauna, una risorsa che il paese vorrebbe, fra l'altro, far fruttare in chiave turistica. Ok, allora, perché vi ho fatto vedere questo documentario? Come vi dicevo, perché la cosa bella è che è possibile fare un paragone col presente. E quindi vi invito poi ad andare su YouTube, ci sono un sacco di documentari, scritti banali, documentari, produzione, viene fuori veramente anche qualcosa un po' veramente, cioè, molto pesanti da vedere, che non mi sentivo di farvi vedere qua. Perché poi queste persone che hanno subito gli effetti dei fitofarmaci, non solo in Costa Rica, in varie latitudini del mondo, poi hanno generato dei figli, poi pure. Vi lascio andare a vedere se quando avete voglia. E beh, poi la banana è un prodotto singolo nel commercio eco, sia in chiave politica, qua avete visto nel primo pezzo si parlava delle condizioni di lavoro di braccianti nelle piantagioni di banane, anche se non è il tema di oggi. Oggi mi interessa più la seconda parte del documentario, no? Quindi biodiversità e sovranità alimentare, distruzione degli ecosistemi, quello di cui parlerò adesso. Però anche l'aspetto del lavoro mi piaceva accennarlo. Avete visto, no? I metodi utilizzati, assumo, licenzio, non c'è salario minimo, ti abbasso lo stipendio quando voglio. Dobbiamo ridere tanto perché guarda un po', un giorno d'acqua. Vediamo, però la situazione non è paragonabile, no? Cioè, assoluto sfruttamento. Ok, iniziamo adesso la presentazione ricollegandoci proprio a queste tematiche qua che sono emerse alla fine del nostro documentario. Volete che lasciamo così o preferite che accendiamo la luce? Lasciamo così, va bene. Meglio così non si vede. Mia faccia non si vede, però. Va bene. Allora, parliamo un po' del sistema agroalimentare attualmente, cioè quali sono gli elementi chiave ancora oggi, no? Che guidano il mercato del cibo, il mercato agroalimentare. Concentrazione. Cioè, c'è purtroppo una situazione di grande concentrazione. Poche realtà detengono il controllo della maggior parte del mercato. E questo provoca inevitabilmente degli squilibri. Una grande tendenza alla privatizzazione ancora, soprattutto per quelle colture o per quegli alimenti che rappresentano un po' la sicurezza alimentare di un paese, poi ve ne parlerò dopo di sicurezza alimentare, però tende a diminuire sempre più il controllo istituzionale, che in alcuni casi è fondamentale. Attenzione però, nei paesi ricchi il controllo istituzionale non diminuisce. Questo è un dato importante, non è da tenere in considerazione, perché di fatto è sempre nei paesi poveri che si tende a liberalizzare, lasciare andare, lasciare fare. Nei paesi ricchi, e lo vedremo dopo, quando si parla del mercato del cibo e del mercato alimentare, il controllo c'è. In ogni senso, dal protezionismo fino a decido se questo prodotto può essere venduto o no, se è buono o no, in base a dei test, soprattutto in Unione Europea, molto seri sugli effetti che può avere il cibo sulla salute umana. C'è ancora, nella stragrande maggioranza, la prevalenza di monocolture, nonostante si è visto che la monocoltura ha portato gravi danni, sia economicamente che da un punto di vista ambientale. Che monocoltura vuol dire coltivo il terreno con un unico prodotto, grandissime estensioni, il terreno, lo sa anche chi non è andato a scuola, che si impoverisce, quindi impoverimento, desertificazione e conseguente abbandono delle terre da chi le lavora, e poi gravi dipendenze in chiave economica. Negli anni 80 c'era stata una forte critica, fino agli 80, negli anni 90, per tutti gli anni 90, una forte critica ai consigli delle istituzioni internazionali, Banca Mondiale, Fondo Monetario, che spingevano per la monocultura, che in un'ottica di pura efficienza di breve periodo aveva senso, no? Però già nel medio lungo periodo portava dei disastri. E purtroppo però il modello è ancora incentrato su questo, cioè il settore privato se ne frega e continua a spingere sulla monocultura. E poi l'agricoltura chimica, cioè la famosa chemical agriculture, in cui vengono usati pesticidi in massa, è ancora l'agricoltura principe. Nonostante i danni fatti dalla rivoluzione verde tra gli anni 90 e il 2000, la rivoluzione verde era chiamata così perché grazie all'utilizzo, soprattutto in alcune zone del sud-est asiatico dell'India, grazie all'utilizzo di queste nuove generazioni di fitofarmaci, di prodotti chimici, si riusciva ad avere dei raccolti veramente eccezionali, anche in terreni che prima avevano pochissimo. Il sogno è durato pochi anni, però, perché poi si è caduto in una situazione peggiore di prima. Ecco, quindi, queste conseguenze qua sono un po' le conseguenze di un sistema non regolato, cioè non regolato nemmeno minimamente. E quando si parla di cibo, la totale sregolatezza, se non funziona, in alcuni casi non funziona, porta degli squilibri che non sono solo economici, ma sono anche sociali, politici, e hanno a che fare con la vita delle persone e la sicurezza alimentare di alcune aree geografiche. Prima di tutto causati da severi, da tremendi danni ambientali. Scusa se alcune slide sono in inglese, ma insomma, ho mischiato anche qui varie presentazioni. Quindi, severi danni ambientali che non sono reversibili. Cioè, questo modello di economia, di mercato, totalmente senza controlli, causa esaurimento delle scorte, delle risorse. La depletion vuol dire esaurimento. Era un esaurimento sfrenato, senza dare la possibilità all'ambiente, all'ecosistema di rigenerarsi. Qua vi faccio alcuni esempi. Pensate al riscaldamento globale, no? Causato dall'intensificarsi delle attività antropiche. Ormai si dice c'è una soglia da rispettare, bisogna diminuire le emissioni, però di fatto si aumentano sempre, cioè gli obiettivi che vengono posti sono di diminuire entro quella data, diminuiamo, poi però si va sempre in controtendenza, si aumenta sempre. L'uso di acqua, che ormai sta diventando in alcune aree geografiche, è veramente, ma più che indiscriminato, sta diventando criminale, perché l'acqua, la risorsa idrica, è detenuta solo dai ricchi, anche nei paesi poveri. Sono i ricchi che hanno il controllo delle risorse idriche, tramite multinazionali, settore privato o settore pubblico in commissione con il settore privato. Non mi ricordo se era Ramana Shiva, non so se la conoscete, è una scienziata indiana, di origine indiana, lei è una fisica e economista, tutte e due. E aveva scritto un bellissimo saggio intitolato Le guerre dell'acqua, in cui stimava, con anche abbastanza rigore scientifico, che quasi la totalità delle guerre attualmente esistenti, il 100% sono guerre per l'agricoltura delle risorse, questo è banale, non sanno anche i bambini, non ci fanno credere che c'è il conflitto israelo-palestinese per motivi religiosi, quell'altro del Congo per il voodoo, chissà che cosa, in realtà è tutto una questione di controllo delle risorse, cioè è chiaro. Ma addirittura lei stimava che un 80%, forse sono il 90%, erano guerre per il controllo delle risorse idriche, che sta diventando la vera risorsa scarsa del nostro mondo. Il famoso oro blu, di cui magari tra 15, 20, forse 30 anni emergerà lo scoperto di questa cosa, perché l'acqua è sempre più scarsa e ha beneficio di pochi. L'inquinamento generalizzato, quindi ancora di acqua, ma non solo, di aria e suolo. E poi sapete che una cosa a cui noi non facciamo tanto caso, ma la tendenza adesso è quella di, non adesso, da un po', di portare ciò che è altamente inquinante da un'altra parte, no? Si fa all'interno del sistema paese, forse avete sentito qualche anno fa sulla possibilità di costruire centrali di scarico in Sud Italia, che qua nessuno vuol vedere, quindi verso i nostri poveri che dovevamo andare alle nostre scuole, però soprattutto verso i paesi del terzo mondo. Ma anche poi l'inquinamento atmosferico ritorna, non è una soluzione per quanto brutta e condannabile, però l'inquinamento di aria soprattutto non è arginabile. Cioè, viviamo in un ecosistema mondo dove poi le cose ci tornano indietro. Ecco, tutte queste sono le cause principali della distruzione della biodiversità. Cioè la distruzione di forme di vita, della varietà delle forme di vita, di cui volevo parlarvi un attimo. Sicuramente avete sentito parlare varie volte della biodiversità, adesso che con Expo usato, è il tema centrale di Expo, come Expo è l'energia per la vita, Ricordo che com'è lo slogan di Expo? Utile il pianeta, il genere della vita, sottotitolo Viva la biodiversità, ce lo metto io. Allora, che cosa si intende per biodiversità? Diamo una definizione giusto per introdurre l'argomento. Varietà di organismi viventi all'interno di una singola specie, intesa come varietà genetica, esseri umani che hanno una varietà genetica, nessuno è identico all'altro, ma anche tra specie diverse e tra ecosistemi. La vera varietà è la diversità degli ecosistemi. Per farvi un esempio, no? Non so se lo sapevate, abbiamo parlato di banane, al mondo esistono oltre 1000 varietà di banane. Avevate idea di questi numeri? No. Io no. Io vi assicuro che fino a che non ho iniziato a dedicarmi a queste cose, non lo sapevo, non avevo proprio idea. Anche perché noi quante ne conosciamo? Quante varietà di banane conoscete voi? Onestamente. Eh? Io sì, io tre conoscevo. Conoscevo la Cavendish, quella lì che si vende comunemente nei supermercati, la Musa paradisiaca, che è quella proprio perfetta, cicchita, i nostri amici, e poi il Plasma, quello grosso. Ah no, scusate, quattro, anche il bananino, no? Il piccolino. Quattro. Allora, non sei. Cioè, io quella non la sapevo e lui la conosce. Però c'è un numero limitato. Di fatto, se ci pensate, gli alimenti che consumiamo noi in generale, cioè quelli che compriamo veramente al supermercato, abitualmente nella nostra scuola, quanti saranno? 10, 15. Soia, che la comprano tutti. Riso, grano, carne, pesce ogni tanto, e anche i prodotti derivati chiaramente, eh? Mais, latte, olive, arance perché siamo in Italia, pomodoro, basta, più o meno, perché c'è quel giorno che mangi tanta verdurina, però i grandi numeri sono una decina di alimenti che noi compriamo e i prodotti derivati. Vi capite che questa probabilmente deriva da nostre scelte, però molto incanalate, molto indotte, no? Cioè, perché secondo voi ce ne vendono quattro tipi di banane? Perché hanno scelto proprio quelle lì, secondo che sono quelle più buone e più sane, o sono quelle che vengono meglio, costa meno produrle e hanno magari una conservazione maggiore? Forse la seconda. Cioè, diciamo che la produzione di cibo è molto spesso orientata e guidata da dinamiche logiche di pura efficienza, però efficienza economica, non efficienza vitale, non so come dire. E, secondo voi di pomodoro quante varietà esistono? Sparate una cifra. Così. 100 varietà di pomodoro. Quanto? 100. 100. 1700. Di cui 300 solo nel nostro paese. E di riso? Sparate una teoria dei giochi, no? Un po' teoria, no, teoria dei giochi, una parte. Teoria dei giochi dice: se mi chiedo di giocare e non perdo niente, gioco sempre, no? Allora, che cosa ci perde? Sparate. 1200. No, 140.000. nel mondo. Oggi in India si è passati da 30.000 varietà, solo in India c'erano 30.000 varietà, a 10. Cioè il 70% delle coltivazioni di riso in India, 70-80 più o meno, è composto da 10 varietà, quando ce n'erano 30.000. Allora capite che qua si parla di perdita di biodiversità, non solo in temi, ma ci piace, qua c'è una mediazione musico-culturale, la varietà è bellissima, no? Voi non insegnate a me che la varietà è bella, no? Perché conoscere l'altro, ma qua non è stato un problema di conoscere la specie di riso diversa. Qua vuol dire che se io ho sfatto fuori 29.990 piante, gli ecosistemi in cui quelle piante stavano hanno subito dei danni. Cioè la biodiversità è importante non solo per la varietà in sé, per la diversità in sé che è bellissima, ma per l'equilibrio degli ecosistemi in cui vivono questi organismi viventi e anche gli esseri umani. Sapete com'è delicato l'equilibrio di un ecosistema? Basta un anello delle scienze delle scuole medie, anche purtroppo non ce lo ricordano più, ma basta un piccolo anellino della catena catena si rompe, rischia di rompersi almeno, se si rompe, diciamo i tragici, esagerato, però rischia di alterarsi, di rompersi. 29.000 varietà di piante, non è poco. Ecco, cerchiamo di capire meglio, cioè questi danni ambientali qua hanno un costo, visto che poi a noi piace parlare in termini economici, al mondo piace parlare in termini economici, perché le scelte di efficienza sono sempre guidate da criteri economici, le scelte operate da chi produce il cibo anche purtroppo, no? Allora, qual è il costo di questo danno qui? È quantificabile? Sì, è quantificabile, ci sono modelli che lo quantificano. Il problema è che il sistema di mercato nostro, quel costo qua non lo considera. Cioè, non so se voi avete mai sentito parlare di esternalità negative. Sapete cos'è un'esternalità negativa? L'esternalità negativa è un evento dannoso che va a toccare un po' tutti. Cioè, esempio, ho un'azienda, una bella fabbrica, la piazzo vicino al laghetto perché ho quel terreno vicino al laghetto che è mia proprietà. L'azienda produce ricchezza per il paese, dà lavoro alle persone, insomma, fa una serie di cose positive, e però produce anche inquinamento, no? Cioè, inquina magari il laghetto di fianco e l'aria delle persone che abitano vicino. Allora, l'inquinamento della fabbrica è un'esternalità negativa, cioè un costo che subisce tutta la società, e il microcosmo chiaro, non lo subisce tutta la società in termini generali, la microsocietà che vive in quell'area e lo subisce un po' passivamente, no? Questa è un'esternalità, perché è qualcosa che ti va a toccare, tu non ci puoi fare niente e tocca un po' tutti, equamente viene suddiviso il danno. Ci sono anche esternalità positive, io costruisco un parco della Nega, condominio privato nella zona strafiga, però magari è al parco aperto di giorno, allora anche gli altri abitanti beneficiano di quel parco, e questa è un'esternalità positiva. Esternalità negativa, il tipico esempio di esternalità negativa è l'inquinamento prodotto. Allora il sistema questo non lo fa pagare per questo qua, perché dice che questo costo lo distribuiamo su tutta la collettività, lo pagano un po' tutti. Però in un sistema invece che ragiona in termini economici in modo molto efficiente, questo non è corretto. Ad esempio, guardate questo schema, è abbastanza semplice. È un piano, una specie di piano cartesiano, primo quadrante, ho sull'asse delle X la quantità del prodotto, cioè quanto devo produrre di un prodotto, sull'asse delle Y il prezzo di questo prodotto. Allora, in economia si dice l'incontro tra domanda e offerta, poi queste curve sono lineari, non è vero che sono lineari, è sempre spiegazione. Sapete che gli economisti cosa fanno? Semplificano tutto. Vedete come si fa a vincere il Nobel per l'economia? Tu prendi una funzione, un modello che ha fatto uno, cambi una variabile. Spesso è una battuta chiaramente, però gli economisti semplificano tutto, c'è una roba. Uno non sa la matematica, purtroppo è. Due semplificano tutto, fanno vedere due reti, non è proprio. Questa è una semplificazione molto forte, però il vantaggio invece è che gli economisti le sanno parlare alla gente, i matematici no. E quindi quello è un bel problema. Bisogna trovare una via di mezzo. Quindi questo modello qui mi dice che l'incontro tra l'offerta, quello che viene offerto sul mercato, e la domanda, cioè quello che viene chiesto dai consumatori, mi dà un equilibrio, il loro punto di incontro, giusto, no? Quindi la quantità che devo produrre è questo punto di incontro sulla coordinata X e la dovrò vendere al prezzo Y che sarà qua, ok? Per avere l'equilibrio, il modello funziona. Però questo costo sociale non viene contabilizzato da nessuna parte. E questo costo qui mi fa shiftare in alto la curva dell'offerta, vedete? Per forza. E alla fine cosa succederà? Che il prezzo dovrà essere maggiore, perché nel prezzo io dovrò includere quei costi che nessuno contabilizza, se voglio agire in modo corretto. Adesso infatti sono previsti i famosi certificati verdi. Sapete cosa sono i certificati verdi? Sono i certificati che un po' una roba per alcuni tratti un po' demenziale, se ci pensiamo bene, però meglio che niente, nel senso, io compro un certificato verde per avere il diritto ad inquinare, cioè più inquino più devo pagare, perché questi soldi serviranno, no? Alla cosa pubblica, all'ente o allo Stato che li percepisce, per poi rimediare i danni fatti dall'inquinamento. Quindi questo costo va incluso e va caricato sul prezzo, purtroppo. Quindi il prezzo dovrà salire e la quantità di produzione dovrà ridursi un po', perché se no si spinge sempre in un'ottica produttiva di push push push, alla fine il costo è altissimo. Vedete, se mantenessimo la quantità che volevamo, la nostra qualità di mercato, il prezzo andava qui. Poi non so se me lo comprano tutti. Vabbè, questo è un modello molto giusto per darvi un'idea di come funzionano questi meccanismi qua, no? È abbastanza chiaro più o meno, no? Come funziona. È molto più complesso di quello che sembra. Però in generale la logica è questa. E questi costi vanno inclusi. C'è uno studio di un economista italiano, si chiama Rai Patel, tra l'altro ho messo anche qualcosa in bibliografia. E ovviamente lui è in bianco, studia negli Stati Uniti, qui adesso c'è un po' la visione un po' super tragica, lui è proprio un ambientalista, un indù, non mangia neanche la carne. Allora lui dice, un hamburger, se dovessimo includere tutti i suoi costi reali, no? Per produrre un hamburger fatto bene, cioè qui, rispettando l'ambiente, dando da mangiare un certo tipo di cose agli animali, trattando bene gli animali e non macellandoli nelle gabbie, un hamburger dovrebbe costare più di $100. Se lui ovviamente è la sua provocazione, no? Però per farvi capire come il valore della merce che noi paghiamo a volte non riflette il vero, quasi mai riflette il vero costo. Se facessimo proprio un'analisi accurata di quello che è la contabilizzazione di tutti i costi, comprese le esternalità negative. È chiaro che però come si fa e si scarica questo costo sulla collettività. Ed è funzionato così fino adesso. Se però noi consumassimo a livello di... Se tutto il mondo, non noi ce la facciamo purtroppo, ma se tutto il mondo consumasse a livello di un paese industrializzato come quello che consuma di più, che sono gli Stati Uniti, allora ci servirebbero probabilmente 5-6 mondi in termini di risorse per mantenere questo stile di vita. Quindi un po' l'ecosistema, capite, un cerchio, no? Che si chiude. Prendo di qua o prendo di là. È come la torta, non è che posso prendere una fetta e poi rimane una fettina. Se voglio dare una fetta un po' più grande agli altri, devo ridurre la mia, per forza. Se no, non andiamo da nessuna parte. Ecco, quindi da un lato risoluzione della biodiversità con tutte queste cause, poi c'è un altro aspetto ultimamente che va a minacciare la biodiversità in agricoltura, che sono gli OGM. Poi come vi dirò dopo, il commercio eco adesso è una posizione di totale rifiuto degli OGM. Dico adesso perché non so cosa succederà nei prossimi anni, il tema di OGM è tutta una scommessa. Ma perché? Qual è il vero problema degli OGM adesso? Allora, non è tanto legato a ragioni che hanno a che fare con gli effetti degli OGM sulla salute umana, perché il vero allarme pubblico, come si parla di OGM, così, soprattutto sui mezzi di comunicazione, è gli effetti che gli OGM possono avere sulla salute dell'uomo. Certamente, è chiaro che è un tema di grande preoccupazione questo qua perché li mangiamo, però di fatto anche dal punto di vista scientifico, poi io non sono un esperto, non sono un biologo, non sono un medico, ma anche ragionando, se ci pensate, da quello che si legge in mezzo agli studi, non ci sono dei reali rischi ancora almeno non dimostrati, perché intanto si producono da troppo poco tempo, occorrerebbero studi almeno 20-30 anni per avere dei dati precisi. Poi di fatto la modificazione, cioè il miglioramento transgenico è fatto da sempre, no? Anche in agricoltura, cioè vengono transgenico, non è una brutta parola. La selezione genica è fatta incrociando specie diverse, no? Quindi la modificazione del patrimonio genetico delle piante già esisteva. No? Qual è la differenza delle biotecnologie transgeniche? Che mentre prima io andavo a incrociare, ibridare delle piante diverse, a crearne delle nuove con un patrimonio genetico differente, cioè il patrimonio genetico veniva modificato, con gli OGM riesco a prevedere quale sarà la variazione genetica che vado a fare. Chiaramente forse è un po' una forzatura, però non è tantissimo diverso da quello che già veniva fatto. Il vero problema degli OGM, secondo me, sono i rischi per l'ambiente, che ancora hanno a che fare con la situazione della biodiversità, perché le specie OGM di solito sono molto più forti delle altre, vengono fatte, vengono studiate in laboratorio per avere caratteristiche di maggiore resistenza, quindi sono molto più resistenti e sopravvivono e prevalgono sulle altre. Quindi grande rischio per la biodiversità, perché poi infestano, diventano quasi infestanti. Ripercussioni sull'equilibrio ambientale ed ecologico, ripercussioni anche sul terreno, perché soprattutto gli OGM di solito vengono progettati per essere abbinati a un uso massiccio di pesticidi. Perché c'è questa logica? Perché uno, perché sono resistenti ai pesticidi, vengono fatti apposta per resistere ai pesticidi, in modo che il pesticida uccide tutte le piante infestanti e gli animali infestanti, ma non danneggia la pianta. E due, perché gli OGM spesso vengono prodotti da grosse multinazionali che insieme all'OGM ti vendono anche il pesticida, il prodotto chimico. Quindi di solito l'abbinamento è questo, che è devastante, in termini di biodiversità è devastante. Però il rischio ancora maggiore è di natura economica, perché quando io ho un OGM, di solito chi me lo vende detiene un brevetto, perché l'ha creato in laboratorio. E anche se purtroppo è una forma di vita, c'è ancora, soprattutto adesso in termini di insieme, scusate, di WTO, World Health Organization, ci sono grandissime discussioni su questa possibilità di brevettare o meno gli OGM. L'OGM di una pianta, pur essendo una forma di vita, è brevettabile. Allora, se un'azienda lo brevetta, brevetta un tipo di organismo vivente geneticamente modificato, poi ne detiene i diritti di sfruttamento. E sono successi già un sacco di casi al limite dell'inverosimile, al limite della barzelletta, che però in alcuni casi hanno avuto effetti gravi, in altri non li hanno avuti, ma sono, per evitarli è stata una lotta terribile. C'è un caso molto famoso, di cui c'è tantissima documentazione anche su internet, se andate a cercare, il caso di una multinazionale americana che a fine degli anni 90 gli è venuto in mente di brevettare, modificando appena appena parte del patrimonio genetico, una varietà di riso basmati. Sapete cos'è il riso basmati? Quello riso indiano, cioè il riso più coltivato in India da 2 miliardi di anni, da sempre. E questi qua avevano brevettato una varietà di riso basmati e chiedevano il pagamento delle royalties, quindi dei diritti di utilizzo, a chiunque, perché poi erano stati fuori, avevano brevettato anche il nome, no? Basmati. Tu non puoi usare il nome basmati o vendere riso basmati, se no devi pagare una royalty a me che ho brevettato il riso basmati geneticamente modificato. Una roba folle, pensate a milioni di contadini, sono miliardi di persone, che probabilmente hai milioni di contadini che coltivavano riso basmati e avrebbero dovuto pagare questa royalty. La causa tra il governo indiano e questi è andata avanti più di 2 anni. Più di 2 anni per dire che non si poteva brevettare il riso basmati. Beh, il governo indiano, ma il governo indiano adesso non è uno morbido, non è visto qui Marò, non è proprio uno che dice vabbè, facciamo finta di niente, parte. Però 2 anni, un'altra continuazione, la Pfizer in Sudafrica, aveva avuto in mente di brevettare la pianta di Nubia, che non so neanche bene cosa sia, ma pare una pianta con delle caratteristiche mediche particolari, genetiche, insomma, che aveva scopi medici, usata dalla popolazione la decenza, un centinaio di anni, questi ci sono riusciti. Quindi hanno diventato la pianta e si sono fatti pagare i diritti per utilizzarla. Non so come sia andata a finire, perché credo che dopo un po' si è intervenuto anche il governo sudafricano. Cioè, alla fine, nelle cause hanno dato ragione alla Pfizer, tu sì, ok, è tuo, però nessuno deve pagarti niente. Alla fine è stata una soluzione di questo tipo qua. Però capite che in alcuni casi i diritti di sfruttamento sono stati riscossi, quindi sono cose molto gravi. Allora, il vero problema degli OGM, se gli OGM fossero total free, cioè pura sperimentazione scientifica con una serie di controlli, una serie di tutele e soprattutto la garanzia di non sfruttamento economico, allora io potrei, per quanto non mi piace, perché in termini di danni ambientali non credo siano inevitabili, soprattutto per l'uso massiccio che viene fatto. Però potrebbe essere, secondo me, un argomento di discussione, ma così io lo trovo veramente di una pericolosità incredibile, cioè concedere ancora che gli OGM vadano. Poi sapete che l'OGM viene coltivato su un campo, ma l'impollinazione non è che viene fermata. Cioè, se un campo OGM è di fianco a un campo e viene, il mio campo viene contaminato con semente OGM, cioè poi il rischio che debba pagare, perché sul mio campo cresce un seme e una specie che è brevettata da qualcun altro. Quindi insomma è veramente una situazione troppo rischiosa, per la quale soprattutto, no, per questo motivo il commercio eco decide di schierarsi non a favore, anzi contro questo tipo di cultura, perché crea enormi problemi. Ecco, secondo aspetto, no? Secondo tema del nostro discorso di oggi, adesso abbiamo introdotto la biodiversità, abbiamo visto quali danni questo sistema può causare alla biodiversità e cosa comporta sulla vita delle persone in generale. Adesso parliamo dell'altro aspetto, la sovranità alimentare. Quindi, la biodiversità da un lato viene minacciata, l'abbiamo visto anche nel nostro documentario. Vediamo invece che cosa succede alla sovranità alimentare, però prima introduciamo la definizione di sovranità alimentare. Sovranità alimentare è un'altra cosa di cui si parlerà tantissimo a Expo Milano, di cui si parla tantissimo anche sui media ultimamente, è diventata un po' uno dei cavalli di battaglia, no? Soprattutto di chi si occupa di cooperazione e sostenibilità. Secondo la definizione originaria di Via Campesina, Via Campesina era un movimento di agricoltori nato in Sud America, agricoltori senza terra, quindi che lavoravano a terra nei grandi latifondi, si sono uniti per cercare di ritornare a un'agricoltura un pochettino più umana e più tutelante nei confronti delle persone e dell'ambiente. E loro hanno coniato questo termine nel 1996. Sovranità alimentare è il diritto dei popoli a consumare alimenti sani e appropriati, prodotti con metodi sostenibili, e a definire la propria politica agricola e alimentare. Una definizione complessa che ha a che fare con la salubrità del cibo, con il metodo con cui viene coltivato il cibo e soprattutto con la possibilità e il diritto di definire le proprie politiche agricole e di sostentamento. Questo perché? Perché la sovranità alimentare può garantire, nell'ottica di Via Campesina, nell'ottica di chi sostiene questa definizione, la sicurezza alimentare, che è un'altra cosa, ovvero la possibilità di garantire nutrimento e fabbisogno energetico adeguato all'organismo per garantire le funzioni vitali e il benessere psicofisico. Cioè, in poche parole, che tutte le persone abbiano accesso fisico, sociale e economico ad alimenti sicuri, sufficienti, nutrienti, garantendo possibilmente le preferenze alimentari dei singoli individui. Cioè, una cosa che ci sembra scontata, ma che in realtà non è poi così scontata. Questo perché? Perché di fatto il sistema di cui vi ho appena parlato, che minaccia la biodiversità, tende a minacciare anche la sovranità alimentare. E vi presento adesso quello che è stato il trend delle recenti politiche agricole a livello mondiale. Allora, da un lato la produzione di massa industriale ha smantellato tutti i sistemi agricoli regionali che erano autosufficienti. E guardate che quando si parla di produzione di cibo e di sicurezza alimentare, l'autosufficienza è fondamentale. Cioè, se un sistema socio-economico non è autosufficiente in termini di cibo, e questo succedeva soprattutto nei paesi in cui era praticata la monocultura, se un ecosistema, un sistema socio-economico non è sufficiente in termini di cibo, gli squilibri sono enormi e la sua sicurezza alimentare è minacciata sempre, costantemente. Non a caso l'Unione Europea e gli Stati Uniti in termini di sicurezza alimentare sono attentissimi, cioè si garantiscono di produrre internamente tutti quelli che sono gli alimenti base necessari per avere la sicurezza alimentare. C'è quindi un modello nei paesi del sud del mondo imposto prima dalle colonie, dai colonizzatori, poi dalle istituzioni internazionali che consigliavano le loro politiche facendo un po' troppo l'interesse dei paesi ricchi, e ora dalle multinazionali, orientato all'esportazione, cioè produco sempre a livello di monocultura quando possibile, esporto coltivando la terra sui latifondi e trasformando i contadini, che una volta in quei microsistemi erano autosufficienti, proprietari delle loro terre, in braccianti salariati. salariati, per me tra virgolette, perché come avete visto nel documentario, il salario non è che poi garantisca chissà quale tenore di vita. Quindi da un lato questa privazione del diritto alla terra comporta privazione del diritto al cibo. Gli viene sottratta la terra, non controllo più le mie risorse alimentari e non sono più padrone della sicurezza alimentare nel mio contesto, nella mia area geografica, perdo il diritto al cibo. Qual è l'atteggiamento dei paesi ricchi? Seguono questo trend? No. Perché i paesi ricchi, come vi ho detto, rifiutano queste ricette, assolutamente. E come le rifiutano? Da un lato pongono forti barriere doganali in entrata. Cioè non è vero che quando parliamo di free trade, cioè commercio libero, che è un po' lo slogan del WTO, no? Dell'Organizzazione del Commercio Internazionale, free trade non vale per tutti, perché il trade non è per niente free, anche perché il nostro sistema regge bene, il sistema di mercato, che di fatto il sistema di mercato è il sistema migliore che ci possa essere. L'anno scorso era, alla fine c'era stato un interessante dibattito, perché era stato inteso da una mia frase che io criticassi fortemente il sistema di mercato, l'economia aperta. È il contrario, cioè, secondo me il sistema di mercato è un grandissimo sistema che si trova su ottime premesse, anche perché se ci pensate non è ipotizzato, cioè il mercato esisterà sempre, l'uomo ha cominciato ad entrare in relazione, a costruire relazioni sociali nel mercato da sempre, ha scambiato, era un luogo di scambio, di incontro, però paritario. Il problema è quando questo luogo non diventa paritario, e di fatto non lo è adesso, perché se ci pensate tutti i paesi ricchi si proteggono tantissimo, soprattutto a livello agricolo. Quindi il vero free market non esiste, il free market. Cioè è un sistema ancora molto basato sul controllo statale, soprattutto nei paesi ricchi, e sul controllo delle istituzioni. E soprattutto cosa fanno i paesi ricchi? Sussidiano tantissimo i loro agricoltori. Cioè gli agricoltori di Europa e Stati Uniti sono sussidiati tantissimo. Il mercato è chiaramente distorto e quindi questo provoca squilibri. Cioè nei paesi del sud del mondo alcuni prodotti costano di più, produrli costa di più che nei paesi del nord. Perché? Perché i paesi del nord sono sussidiati, gli agricoltori del nord sono sussidiati pesantemente, come dallo Stato. Quindi, cioè, è un sistema molto dipendente dal pubblico, se ci pensiamo. Ad esempio, due esempi che ci riguardano. In Ghana, io sono stato di recente a fare un lavoro in Burkina Faso, paese confinante col Ghana. Il Ghana è un paese che sta crescendo abbastanza in termini produttivi, ha una buona catena di trasformazione dell'agroalimentare rispetto al Burkina e ad altri paesi dell'area, dell'Africa occidentale. Quindi ci sta mettendo del suo, sta crescendo. Qua il problema però che su alcuni prodotti subisce troppo la concorrenza dei paesi ricchi. Cioè il concentrato di pomodoro italiano in Ghana costa un quarto di quello prodotto localmente. Perché? Perché gli agricoltori italiani sono tantissimo sussidiati. Quindi riescono a far arrivare il prodotto a un prezzo giusto che è più basso di quello locale. E in Africa, una cosa interessante dell'Africa, non so se siete mai stati in Africa, ma si pensa sempre, vai, Africa, cioè povertà, infrastruttura zero. No, in Africa c'è mercati, supermercati e i mercati che ci sono, soprattutto in termini di cibo, sono carissime. Io a Ouagadougou ho visto prezzi più alti che a Milano, nei supermercati normali, supermarket, superette, quelli lì, cioè prodotti importati soprattutto, chiaramente, costano tantissimo. Quindi, se io riesco ad avere un sussidio forte, vado giù con il mio prodotto, può essere che costi addirittura meno di quelli locali. In Giamaica si consuma latte europeo, c'è una produzione locale fiorente che però deperisce perché il costo del latte europeo è inferiore, sempre perché è sussidiato pesantemente e quindi arriva, viene esportato in grande quantità. Tutte queste sono chiaramente minacce alla sovranità alimentare dei singoli popoli, dei singoli sistemi sociali. Fare i popoli non è corretto. Da un lato ancora per lo strapotere delle multinazionali che controllano il mercato a tutti i livelli, produzione, trasformazione e commercio, e quindi strozzano l'economia locale. Anche quella che ce la fa, che riesce a emergere, riesce a vendere i propri prodotti, però viene strozzata da questa concorrenza. Per cortesia. I piccoli produttori quindi vengono estromessi a causa delle politiche di sussidio e del potere delle grandi compagnie di cui vi ho parlato prima, e cosa succede? Che il piccolo produttore agricolo abbandona la terra, cioè la tendenza a colonizzare le città, soprattutto nei paesi del sud c'è un'urbanizzazione fortissima, la gente continuamente lascia le campagne per andare in città, deriva di fatto dall'impossibilità di sostenere la propria vita, la propria famiglia tramite il lavoro agricolo. Cioè, man mano che vengono estromessi dal mercato, lasciano la terra, la abbandonano perdendola, anche chi ancora non la possedeva, dando le mani al latifondo e vanno in città. Posizione della monocultura di cui vi ho già parlato, prima dai colonizzatori, poi le istituzioni internazionali e adesso ancora dalle grandi imprese. E poi, giusto per ricollegarci al video visto all'inizio delle pubblicità, un'altra grande minaccia della sovranità alimentare è fatta dalla comunicazione delle campagne di massa che orientano sempre di più i consumi delle realtà rurali, dei paesi di sviluppo, a simulare il consumo occidentale, cioè l'occidentalizzazione dei consumi, quindi la ricerca di prodotti, anche aspirazionali, se volete, che però sono di fatto provengono dai paesi ricchi e vengono in qualche modo imposti alle economie locali, è un'ulteriore causa e conseguenza di perdita di sovranità alimentare, perché tutti cercano il prodotto che mi viene propagandato dai mezzi di comunicazione di massa. Questo prodotto non è un prodotto che appartiene alla mia cultura, alla mia realtà, viene dall'esterno, non può essere prodotto localmente, di fatto i consumi si indirizzano verso questi prodotti e la produzione locale viene danneggiata. Pensate ai cereali raffinati e ai prodotti industriali in genere. In Burkina Faso il lavoro che ho fatto adesso era proprio per sviluppare una filiera agroalimentare possibilmente organica o comunque ecosostenibile dei prodotti locali, perché una serie di ONG e associazioni locali ci hanno chiesto questa consulenza come altro mercato, soprattutto per cercare di capire come proporsi in un mercato di quel tipo, che è un mercato di sussistenza, no? I cosiddetti subsistence marketplace. Ecco, io quello che ho trovato in Burkina Faso è veramente sorprendente, se non preoccupante. Guarda, cioè quella è una tradizione di un paese in cui i cereali di base sono il miglio e il sorgo da sempre, no? Adesso negli ultimi due decenni, forse nell'ultimo decennio, c'è stata una controtendenza verso prodotti che arrivano dall'estero, quindi cereali raffinati, pasta, il boom della pasta, non sanno neanche cucinare, non fa parte della loro cultura locale, ma c'è stato un boom della pasta incredibile, e del riso. Il riso che però arriva soprattutto dai paesi asiatici. Questo ha depresso l'agricoltura locale in un modo pazzesco, impoverendo i consumatori, perché questi prodotti hanno un prezzo più elevato in questo caso, però le campagne di marketing e comunicazione hanno reso possibile tutto ciò, cioè una cosa impensabile, perché il povero contadino o abitante urbano in Burkina Faso insensatamente dovrebbe comprare qualcosa che costa di più, che non appartiene alla sua cultura, quando invece il mille e il sorgo sono in abbondanza e ancora a prezzi più bassi. Ma lo fa perché la comunicazione di massa è devastante, cioè man mano che anche si sviluppano i mezzi di comunicazione come TV, computer, internet, cellulari, bombardamento ha effetti devastanti. In questo abbiamo una grossa responsabilità, e noi paesi avanzati, sviluppati, tra virgolette, perché chiamiamo il principale, ma l'avanzamento dello sviluppo poi si basa anche su altri parametri. Io vi volevo raccontare questo episodio, ho sentito una scena incredibile all'ospedale, passavo probabilmente non per problemi, andavo a trovare colleghi di una ONG che lavora sulle emergenze sanitarie, ho sentito questa scena che mi scordo mai. Una donna, una ragazza con un taglio, una gamba banale, dialogo con il medico e il medico gli dice: ma gli ha fatto il problema, un fe l'anestesia locale. Gli ha detto: un fe l'anestesia locale. Voi parlate francese meglio di me. Adesso facciamo un'anestesia locale. Una stupidata, un taglietto. Quando poi ha sentito locale, le ha detto: s'il vous plaît, on fait quelque chose de français, pas locale. Cioè, per favore non mi faccia la zia locale, io intendevo locale del nuovo. Facciamo una francese, un prodotto francese, un'anestesia francese, un europeo. Questo è l'idea. Per farvi capire come. Cioè un totale. Addirittura a Ouagadougou non esistono ristoranti burkinabè. Al massimo ivoriano. Cioè la cucina burkinabè è vista come una roba. Non esiste, cioè i poveri mangiano, cioè, burkinabè non c'è ristorante. Non era così in passato. E per farvi capire come questa smania di consumo all'occidentale ormai pervada di là in tutto il mondo dei paesi in via di sviluppo, e quando ha a che fare con il consumo di cibo è un problema, è un problema grosso, perché deperisce, fa deperire, scusate, l'agricoltura e il mercato locale. Ecco, gli effetti sullo sviluppo sono tanti perché più di 2 miliardi di persone vivono di agricoltura nel mondo. E se ci sono questi meccanismi qua che la vanno a danneggiare, che vanno a danneggiare la sovranità alimentare delle comunità locali, gli effetti sullo sviluppo sono molto molto grossi. 2 miliardi di persone vivono di agricoltura. E questo sistema li danneggia in qualche modo. Addirittura in alcuni paesi, come il Burkina, quasi il 90% della popolazione si dedica all'agricoltura. 90% vuol dire quasi tutti. E poi da qui capisci dove nascono i problemi di sviluppo. Perché il paese non cresce, o meglio, magari cresce, ma le condizioni di sperequazione in termini economici e sociali rimangono, anzi si accrescono. E da un lato poi le sperequazioni sociali e economiche hanno effetti sulla vita delle persone in termini di effetti sulla nutrizione o denutrizione. Nel sud, anzi non nel sud, in tutto il mondo il 40% della popolazione ad oggi è malnutrita. In questo sistema qua produce questo dato. Per quanto possa essere bello e funzionale, però questo dato non ci può piacere. Se il 40% della popolazione o perché è sottonutrito o perché è in sovrappeso, non va bene, quasi la metà. E ad oggi ci sono almeno 805 milioni che soffrono la fame cronica severa, severa pesante, no? Che mette a rischio le due funzioni vitali. Questi erano circa 850 milioni nel 2009, questi sono dati FAO, vedo per esempio, dati FAO aggiornati, gli obiettivi del millennio, i millennium development goals, dicevano entro 2015 abbiamo almeno 200 milioni, massimo di più. Non ci siamo riusciti. Non ci siamo riusciti, ma perché questo sistema qui non ce la può fare da solo. Quindi qual è il paradosso di questo sistema, di questo mercato qua? Cioè, che soffre la fame al giorno d'oggi soprattutto la popolazione rurale dei paesi in via di sviluppo. Cioè, i produttori del cibo soffrono la fame. Perché il modello è diventato, produco per esportare, produco per i paesi ricchi e l'accesso. Il vero problema è l'accesso al cibo, no? Sapete che, no, non sapete, lo dico io, oggi la produzione di cibo mondiale sarebbe sufficiente a sfamare non il doppio, ma quasi delle persone che vivono attualmente sulla Terra. Però è che non c'è l'accesso a questa grossa risorsa, o spesso e volentieri viene anche sprecata. Cioè, la divisione delle risorse è iniqua e inefficiente. Se lo vediamo da un punto di vista fisico, cioè c'è questo sud del mondo che produce sintropia, cioè dà energia, continua a dare carburante, e il nord che produce entropia. E dove la butta questa entropia? Al sud. Due dati così giusto un po' più grafici. Vediamo dove vivono le persone, dove sopravvivono le persone che hanno a disposizione meno di un dollaro al giorno. Più è ciccione la cartina, vuol dire che più ci sono persone. Africa, India, sud-est asiatico, questo blu è il Messico, non gli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti se hanno un dollaro al giorno non ce la fa. In Africa subsahariana il 51% delle persone vive in povertà estrema, questa percentuale raggiunge il 41% in sud-est asiatico, in Sud-Asia, scusate, e il 100% in Asia dell'Est. Lavoro minorile, quindi conseguenza poi di quella situazione, cos'è? C'hai idea, una delle grosse piaghe che ancora non si riesce a sradicare, sembra la fotografia di quella di prima, non è un caso. Poi è un dato ancora più grave, se parliamo di sicurezza alimentare, tasso di mortalità tra 0 e 5 anni, un po' legato sicuramente ai problemi sanitari, alla natura sanitaria, ma anche e soprattutto alla nutrizione, perché un bambino in questa fascia di età qua, soprattutto nei primi mesi di vita, se non hai nutrienti, non ce la fa a sopravvivere. Più o meno, siamo un po' il cane che si morde la coda. Allora, questo mercato totalmente libero funziona, questi dati a me pare che mi dicono di no. Ma perché? Perché probabilmente, almeno secondo quella che è la mia modesta opinione, le sue ipotesi fondamentali, che sono due, quelle secondo me fondamentali, non sono rispettate. Perché il modello, ragazzi, è un modello fatto molto bene, in cui io, come molti altri, credo in questo modello qua. Cioè, il mercato può funzionare, se un mercato è questo, non perché io sono nel commercio consolidato, ma equo etimologicamente, cioè, se c'è parità, se c'è scambio, se c'è interazione, se c'è dualismo, biunivocità, non si dice biunivocità, però io sono bilingue, mia mamma è spagnola, io sono italiano, e poi ho fatto le scuole negli Stati Uniti, quindi a volte degli strafalcioni che non si possono capire, mi correggete, insomma, biunivocità si può dire. Da un lato non c'è questa mobilità dei fattori perfetta, c'è fattori di produzione, beni, servizi, capitale e lavoro soprattutto. Il modello presuppone perfetta mobilità, cioè se la riallocazione delle risorse deve essere efficiente, ci deve essere questa mobilità, questa possibilità di spostarsi, uno dei fattori. I beni possono andare in tutte le direzioni, se il mercato fosse libero, vero? Allora non ci dovrebbe essere questo protezionismo dei paesi ricchi, ah no, io ho la mia agricoltura, attenzione, i miei prodotti me li mangio io, non voglio un prodotto. Le tue banane, tu della banana, il tuo zucchero o il tuo riso al programma, ciò il mio. Non sussidierei i miei agricoltori. E soprattutto, questa qui è una cosa importante, non lo dice mai nessuno, perché sembra il segreto di Pulcinella. Ma se il mercato è libero e i fattori si devono riallocare in modo più efficiente, allora il fattore più importante è il lavoro. Le migrazioni sono libere? No. Cioè, queste distorsioni salariali, perché i salari così bassi nei paesi del sud? Se il mercato funzionasse veramente, la gente se ne va. Cioè, tu dove vai? Vai dove il mercato è più efficiente. Io sono un lavoratore, non sto a prendere un euro al giorno, vado dove me ne danno 50-60. Però non è così, cioè, e purtroppo è brutto da dire, ma cioè, il fenomeno migratorio non è libero. La riallocazione dei salari e l'efficienza del mercato dipende molto da questo fattore. Poi è chiaro che conviene, ai paesi conviene che sia così. Però non mi posso fare sentire certi discorsi, poi al di là del punto. Guarda, questo è un tema, io quando stavo all'università mi occupavo di dinamiche della popolazione, ero uno statistico, mi interessavo molto a population dynamics, fertility, migration, queste cose qua, era il mio campo. Non mi possono sentire i discorsi di tutti i colori politici, non ce n'è uno più dell'altro. Quando parlano di migrazione, mi sembra che parlano di aria fritta, cioè di cosa stiamo parlando? Di migrazione in Italia. È un fenomeno inevitabile adesso, se parliamo in termini statistici, economici, non se ne può venire fuori, e nel mondo anche. Per una questione di efficienza dei mercati, è vero, però di fatto non è così, e quindi lo squilibrio rimane. Guarda, se questa cosa la parlo più tempo particolarmente, ma è molto legata ai temi che stiamo parlando, in termini di ricchezza, povertà, perequazione e sperequazione. E appunto le barriere di cui parlavamo prima, cioè comunque ci sono questi sussidi, quindi il mercato, ragazzi, non è veramente free. Il nostro sistema di mercato free market non è così. Anche perché se ci pensate, con la crisi recente del settore bancario, quella del 2008-2009, chi le ha salvate quelle banche lì? Io sapete, questo dovrei spegnere la telecamera. Io prima di lavorare per i Fratelli lavoravo da Lehman Brothers. Spero che voi non sappiate neanche chi era, non esiste più. Però quelle banche di investimento di JP Morgan, Goldman Sachs, quando hanno fatto il crack nel 2009, ma chi le ha salvate? Salvate lo Stato. Le ha salvate noi, i contribuenti americani. Cioè, allora è lo Stato che ti salva. Il suo sistema quindi dipende un po' tanto dallo Stato. perché come al cieco, che mi ha quasi finito. Poi volevo lasciare un po' di spazio per le domande. Magari se avete qualche domanda. Perché Fair Trade, come al cieco, secondo noi dovrebbe correggere un po' di queste imperfezioni del mercato. Dovrebbe in qualche modo mettere dei paletti, no? Vabbè, che cos'è il Fair Trade? Andiamo veloci. È un movimento sociale, e un movimento di mercato, chiaramente, un sistema di mercato che promuove gli standard di produzione in termini di pratiche produttive, condizioni di lavoro, remunerazione del lavoro e protezione dell'ambiente e politiche sociali. Come funziona? I produttori, in generale, e gli agenti di questo sistema devono adeguarsi a degli standard sociali abbastanza stretti, a volte molto stretti. Lo dico un po' criticando anche questo molto, perché a volte bisognerebbe includere di più, è una critica che faccio al nostro movimento, però sono molto stretti purtroppo a volte, che riguardano sviluppo sociale, sviluppo economico, protezione e tutela dell'ambiente. Questi sono gli standard a cui i produttori devono rifarsi. Cioè, un produttore deve dimostrare che ha un impatto sociale rilevante nella sua comunità, ha un impatto economico in termini di miglioramento, poi vedremo, non so, il salario più alto o adeguato, protezione ambientale massima, condizioni di lavoro sicure, eccetera eccetera. E dopo che hanno dimostrato tutto ciò, con un ente certificatore che certifica, ricevono il diritto a utilizzare il marchio Fairtrade, una specie di consorzio che ti dà il marchio, e etichettare i tuoi prodotti. Dove nasce il Fairtrade? Nasce parallelamente in Europa e negli Stati Uniti negli anni 50. Intorno agli anni 50 negli Stati Uniti sono piccole iniziative locali che si incomincia a importare dei lavori, all'inizio lavori a maglia da artigiani di Porto Rico. Invece in Europa è più strutturato, proprio sono già delle organizzazioni in Nord Europa, ovviamente, soprattutto UK e Olanda, anche organizzazioni religiose. Le organizzazioni religiose hanno avuto un grandissimo contributo al nostro sviluppo del Fair Trade, e ancora oggi, soprattutto in questi paesi, danno una grossa mano. E poi, negli anni 60-70, come sapete, tutti i movimenti ideologici si sviluppano tantissimo, soprattutto dopo l'indipendenza delle colonie africane, che è stato visto come, perché sapete che l'Africa, le colonie africane sono state liberalizzate dal 1960 in poi, il Ghana è stata la prima, 1960, e poi le altre, uno dopo l'altro, quasi. Il Ghana, però, se non mi ricordo male, credo il Ghana. Poi negli anni 90 il movimento si consolida e diventa la realtà che più o meno conoscete oggi. Negli anni 2000 non è cresciuto tantissimo, ha resistito, anche perché è stata una bella crisi, ma ha resistito abbastanza bene. Nel mondo oggi ci sono circa 1 milione di piccoli produttori, tanti, ma non abbastanza. 3.000 organizzazioni in più di 50 paesi che aderiscono a questo movimento. In UK Oxfam è molto forte, e anche l'ONG Oxfam. In Olanda c'è Solidarità, che ha iniziato all'epoca proprio con le banane, gli anni 80, 80-90. In Italia abbiamo Agrofair, che si occupa solo di frutta, e Max Agrofair in partnership con gli olandesi, perché grazie a loro sono arrivate le banane in Italia, e Max Adler, che si occupa di caffè. Questi sono dei nomi un po' grossi, quindi se volete andare a cercare capite cosa fanno. In Italia abbiamo CTM, nell'88 si chiamava Cooperazione del Terzo Mondo, oggi si chiama Altro Mercato, è il consorzio di cui la cooperativa di cui lavoro io fa parte, un consorzio insieme di tanti soci, in questo caso tante cooperative sparse in tutta Italia. Abbiamo centinaia di negozi in tutta Italia e in tantissime città abbiamo dei soci. Siamo il più grosso consorzio in Italia e il secondo al mondo attualmente. Quali sono i principi fondamentali del Fair Trade? Vabbè, li riassumo qua un po' più nello specifico. Quindi, pagamento di un prezzo equo per i produttori, per garantire standard di vita dignitosi, anche al di sopra dei minimi salariali, molto spesso, quelli sindacali, rispetto ai diritti umani, quindi non schiavitù da lavoro o da vendita, come a volte succede, rifiuto del lavoro minorile, stabilità delle relazioni con i produttori, prefinanziamento ai produttori, investimento obbligato in attività sociali, cioè il surplus. Le organizzazioni Fair Trade sono non profit. Cosa vuol dire non profit? Che se c'è un profit, speriamo che ci sia, Questo profitto non può essere trattenuto o distribuito tra i soci, ma deve essere reinvestito per forza in attività di utilità sociale. Questa è un po' la chiave del sistema, cioè anche quando fanno queste grosse, sento a volte questo attivismo un po' sperato che a me non piace, in cui si condannano le multinazionali, ogni tanto c'è la moda, adesso prendiamo di bersaglio questa multinazionale e la massacriamo. Sì, ma non è il problema della multinazionale, cioè non ci si può accanire contro una persona che gioca ad un gioco se le regole del gioco ti dicono di fare così. Cioè, è un problema di regole del gioco, cioè come il non profit come modello di business è un po' la chiave, no? Cioè perché non sei portato a sfruttare? Perché sei un organismo non profit. Cioè tu fai un profitto ma non reinvesti per la comunità, è lì la chiave. Inutile che diciamo è la Coca-Cola, il demonio, la Nike e il modello di business. No, loro giocano a un gioco e le regole sono quelle lì. Bisognerebbe veramente rivederla in un'ottica di sistema questa critica qua. Cioè le regole del gioco dovrebbero essere diverse, allora forse si potrebbe ragionare. Strutture democratiche e assolutamente, in termini di tutela della biodiversità, la protezione dell'ambiente. Cosa facciamo nello specifico per la protezione dell'ambiente? Vabbè, management del paese, sì, questa è una traduzione un po' ardua, però attenzione allo sviluppo dell'ambiente circostante in termini di landscape management, non so come tradurlo, però uso sostenibile delle risorse, ecco, questa è forse la definizione migliore. Uso sostenibile delle risorse in tutto quello che è l'ecosistema circostante o il microecosistema. Attenzione alla salute di questo ecosistema e praticare il più possibile tecniche produttive rispettose. Il più possibile perché è chiaro che a volte se vogliamo dei prodotti di un certo tipo il processo industriale è necessario, ma bisogna cercare di minimizzare l'impatto. E si può, ormai la tecnologia deve andare avanti in questo senso, no? Cerchiamo di ridurre i danni e ci si riesce. Ad esempio una protezione dell'ecosistema è la rigenerazione delle piante. Il planting regeneration, cioè non lo fanno tutti, però è importante invece, quando c'è la rotazione delle culture, cambiare le culture dei terreni, poi devono essere rigenerati questi terreni qua. Cioè ci mette una pianta che lo aiuta e che ha caratteristiche rispetto a quella che c'era prima, un poco in controtendenza per riequilibrare il suolo, no? Evitare prodotti chimici e pesticidi, assolutamente. Ormai il fair trade si orienta quasi tutto sul bio, perché non si può più regenerare, è diventato qualcosa sia in termini di mercato, di richiesta dei consumatori, e sia in termini di tutela dell'ambiente, non si può prescindere da lì. Diversificazione, l'ho già detto, diversificazione delle culture. Ecco, un caso di studio rispetto a quello di cui abbiamo parlato, le banane, perché banana republics? Perché banana republics era un termine che ancora si usa oggi, ma che era stato coniato negli anni 80 per quando volete indicare un paese, proprio un paese pagliaccio in cui il governo non diceva niente, ma c'era qualcuno dietro che decideva, si chiamavano banana republics, perché in quei paesi effettivamente c'è stato un periodo, soprattutto negli anni 80, in cui cioè, le multinazionali decidevano tutto quel paese, erano loro il potere, no? Anche esecutivo. Le banane sono la prima commodity oggi in termini di volume per esportazione al mondo. Pensate che quantità, diceva il documentario che costano meno delle mele e quindi probabilmente sono consumate anche in più delle mele. Pensate a un prodotto tropicale che da noi, chi è che non mangia le banane, ma che non sono allergici? Nessuno, perché nelle scuole le vedo sempre, quando giro nelle scuole le vedo sempre. Però in molti paesi del sud è anche un alimento della dieta base, quindi anche fare con la sovranità alimentare, no? La banana è proprio fa parte del pasto quotidiano. È un mercato concentrato, quindi l'80% è gestito dai top 5, che sono le multinazionali che avete visto più o meno, e i due terzi da i primi tre, quindi Cinquita, Dole del mondo, per fare tre nomi. E quella è la diversità del fair trade. È fondamentale capire come, cioè la ripartizione dei salari è quasi il quadruplo di quella che c'è, cioè il salario che viene dato al produttore nel frattempo è quasi il quadruplo di quello che viene dato nel mercato tradizionale, cioè di ogni euro ho un 18%, 18-20 a seconda, che va al produttore, cioè rimane nel paese, mentre il 5% normalmente viene versato nel sistema tradizionale. I costi di importazione sono molto alti, soprattutto nel nostro paese, nell'Unione Europea, ci sono degli standard da rispettare altissimi e la distribuzione un po' si prende una fetta, soprattutto per le banane che vanno nei circuiti di grande distribuzione. Se lunga la banana fair trade, non sono uno dei primi, anzi, che ci è proprio venuto a cercare, però i costi sono di margine, purtroppo sono quelli che sono, e quindi non si riesce ancora, bisognerebbe lavorare per aumentare questo verde qua, però già è un buon risultato. Soprattutto perché, attenzione, questa banana fair trade è prodotta con costi molto più alti rispetto a quelli delle multinazionali, perché c'è tutta un'attenzione alla tutela ambientale e al rispetto dei lavoratori, non solo in termini di salari, ma di condizioni di lavoro, protezione, sicurezza sociale, che fa lievitare tantissimi costi, quindi poi bisogna caricare un pochettino qua, altrimenti non ci si sta dentro. Ecco, prima di lasciarvi, volevo darvi giusto degli ultimi messaggi finali su quello che è il commercio eco, quello di cui abbiamo parlato oggi. Allora, vorrei che il messaggio che arrivasse fosse che il commercio eco non è charity, non è una roba di beneficenza, di aiutare i paesi del terzo mondo perché hanno bisogno, cioè non è assolutamente una cosa caritatevole, per quanto io apprezzi le iniziative caritatevoli che ci sono, non fanno mai male, però è un'altra cosa, perfetto. Non è uno slancio di creatività, non è neanche l'aiuto, è l'aiuto allo sviluppo, quindi gli aiuti che vengono dati anche tra stati, tra paesi, dalle istituzioni internazionali, sia monetarie ma non solo. Cioè il fair trade è qualcosa, è semplicemente la restituzione delle risorse ai legittimi proprietari. Tu hai, sei in quel paese, hai delle risorse, vuoi commerciare con quelle risorse, vuoi riuscire a scambiare sul mercato, facciamolo in modo paritario. È questo, riscrivere le regole del gioco. Vabbè, due frasi che vi cito qua, una di Kennedy del 61 e una di Nixon del 68. E questi hanno detto questo testuale qua, all'epoca era proprio sdoganato, adesso non direbbero mai più una cosa del genere. Però all'epoca dissero, Kennedy disse, gli aiuti internazionali sono uno strumento grazie al quale gli USA non si avranno un ruolo di influenza e controllo in tutto il mondo. Nixon invece disse, ricordiamo che lo scopo principale è che non è aiutare le nazioni, ma aiutare gli stessi. Magari la legge non mezza battuta, però... Capite che quando ci sono gli aiuti di cooperazione tra stati, molto spesso gli accordi bilaterali, anche nel nostro paese, hanno dei chiari vantaggi per il paese che aiuta, in termini ad esempio di contratti di fornitura, possibilità di investimenti e di appalti nel paese che viene aiutato. Quindi di fatto è un po' un giro di soldi che alla fine torna indietro. Non sempre, attenzione, c'è anche a volte ci sono aiuti internazionali che hanno un impatto sociale elevato, però capite che pensare che io ti do qualcosa gratis è difficile, per senza avere niente in cambio. Infatti il fair trade non ti regala niente. Però il fair trade ti mette in condizione di commerciare in modo paritario. Questo secondo me è già una gran cosa. E Romano Sciva diceva, non bisogna tanto andare nei paesi del sud a aiutare, cioè la responsabilità sociale, civile, a livello internazionale non dovrebbe essere quella di aiutare, dovrebbe essere quella di non fare danni. Una volta che io non ho fatto danni, dormo proprio bene. Senza dire male, senti aiuto. No, non ti ho fatto dei danni, già siamo a posto. Perché fino adesso... Ecco, poi, secondo me il fair trade è veramente economia. Non so se sapete, ma economia è una parola che deriva dal greco. Per i greci l'economia era la produzione per il proprio fabbisogno. Per la propria sostenibilità, dove la sostenibilità aveva a che fare con la qualità di vita degli individui. Cioè io soddisfo il mio bisogno, produco per me, vivo bene insieme agli altri, l'armonia, sto facendo economia. Questo dicevano i greci. Poi i greci dicevano, c'è invece la crematistica da crema, non so se avete fatto greco, ma servono i beni materiali, no? La crematistica è invece la produzione per la vendita di questi beni e l'arricchimento. Non era economia, oggi l'economia è tutta crematistica, non è intesa così. Cioè l'economia aveva un altro significato, secondo me il fair trade la recupera un po' quel significato lì. Cioè produco per il mio sostentamento e commercio in modo paritario, in armonia con gli altri, cioè vivo bene con gli altri, altrimenti non perde un po' tutto senso. Ultima frase, che è una frase che secondo me ancora sintetizza bene cosa fa il fair trade, che è una frase che diceva il povero Thomas Sankara presidente di Fina Fabio, sono appena stato, quindi forse sono ancora un po' coinvolto emotivamente, e Sankara diceva: aiuti, lo scopo deve essere aiutare i poveri a non avere bisogno di aiuto. Il Fair Trade vuole fare un pochettino questo, anche cercando di rispettare la loro sovranità alimentare e senza distruggere la biodiversità, che è patrimonio di tutti, anche nostro. Ok, io ho finito, vi volevo far vedere soltanto questi due siti, che sono il sito di Agromercato e di Cico Mendes, che è la cooperativa di Milano. Se vi andate dalla Rimocchiano mi fa piacere. Ogni tanto qualcuno mi chiede cosa si può fare, come si dà una mano. In questo momento, in questa fase storica, noi non abbiamo bisogno di donazione di soldi, quello è il mio esempio, però noi chiediamo adesso se veramente, soprattutto ci sono dei giovani come voi, nuove generazioni, gente che abbia voglia di mettersi un po' in gioco e di far parte del nostro movimento, anche l'associandosi. L'associandosi non è un costo, è una roba simbolica. Cioè, associarsi vuol dire ok, ti do, l'associazione si fa a vita, sono 25 euro a vita, giusto per i costi di registrazione e assicurazione, si viene a fare volontariato, ma è una simbolica. Se qualcuno veramente avesse voglia di approfondire questo mondo e di entrare a far parte, magari anche solo curiosato, che vuole, interessato, ci può contattare, perché noi adesso cerchiamo gente. In questa fase storica il commercio ha bisogno di nuove energie, di persone, soprattutto giovani. Bisogna un po' svecchiarsi, perché sennò non riusciamo. Io già sono vecchio, ci vorrebbe gente della vostra età per parlare alla prima generazione. Perché negli anni 90 c'è stato questo grande lancio di movimento, perché c'erano i popoli siati, c'erano questi movimenti che nascevano spontanei della vostra età. Adesso è un periodo in cui non ci sono più ragazzi della vostra età. Quindi se avete voglia, e li lascio andare, se vediamo già. Grazie. Grazie a voi.